8 e 19 minuti di giovedì 5 novembre, care ascoltatrici, cari ascoltatori, al microfono sempre Simone Spezia per questa terza parte di 24 mattino. Alle 8.35 avremo ospite Eugenio Giani, il presidente della Toscana, per capire un po' come la vede, ovviamente come ben sapete, del PD di centrosinistra, però come vede questo rapporto che si fa più complicato tra le regioni e il governo, soprattutto le regioni di centrodestra. Il presidente della regione Piemonte, Cirio, proprio in questi minuti sta dicendo che il governo deve spiegare la logica delle scelte e dimostra una certa rabbia. E poi ci occuperemo di immigrazione e del rapporto tra immigrazione e terrorismo, lo faremo col sottosegretario alla difesa Angelo Tofalo, dopo il caso di Nizza e non solamente dopo quello, anche le nuove dichiarazioni che sono arrivate dal Movimento 5 Stelle, da Luigi Di Maio, sul tema della chiusura dei porti. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, l'800-24-0024 se volete intervenire in diretta. È come sempre il momento dell'appuntamento con Paolo Mieli. Paolo, ciao, buongiorno. Eccoci qua. Partirei dagli Stati Uniti, no? Con Biden, sì, che ha vinto sostanzialmente. Biden ha vinto, ma non ci sono molti altri discorsi da fare. Adesso Trump lo sta inondando di ricorsi, riconteggi in Pennsylvania, Wisconsin, Michigan. E questo ricorso alle corti, alla giustizia, sottolinea Ernesto Gallido della Loggia sul Corriere, non deve scandalizzarci, nel senso che anche i progressisti hanno avuto benefici da questi ricorsi alla giustizia in passato, e quindi fa parte dei modi di far politica, e anche dalla presenza della Corte Suprema e delle corti nella politica, che hanno preso un posto che prima spettava per intero ai parlamenti. Le cose che mi hanno colpito, a parte questo che abbiamo seguito tutto il giorno, Giuliano Ferrara nota sul Foglio questo strano ballo che Trump ha iniziato a fare sul palco, che è un misto strano di twist di rock. Effettivamente anch'io non capisco. Ci ha fatto anche uno spot. Ci ha fatto anche uno spot, è sulla musica di YMCA. Ci ha fatto lo spot finale delle elezioni, Trump. Sì. Brutta figura del premier sloveno Janez Janša, che è la Slovenia dove è nata Melania Trump, che si è complimentato con Trump come se avesse vinto le elezioni e ha dovuto fare marcia indietro. C'è la prima deputata di QAnon, quella setta che si batte, di estrema destra, antisemita, che si batte e dice che tutto ciò che sta accadendo è un complotto organizzato da Hillary Clinton, che è a capo di una congiura di pedofili e bevitori di sangue. Entra anche questo in Parlamento, e così insomma il manifesto nota che adesso Bolsonaro si trova isolato da solo in tutto il continente a difendere tesi comunque antivirus, e che la Louisiana ha cancellato il diritto all'aborto. Ma la cosa che mi ha colpito di più è che già c'è chi si mette, come sempre, come se fossimo in Italia. Murdoch ha mollato immediatamente Trump e le sue televisioni hanno cominciato a dare la vittoria di Biden immediatamente. Trump si è arrabbiato, pare che ci sia stata fra i due una telefonata furibonda, e Murdoch sta già guardando a sistemarsi con il nuovo vincitore. Mette le vele al vento. Paolo, a proposito di televisione, allora ieri 20:20 consueto appuntamento con il Presidente del Consiglio, più o meno settimanale, per l'illustrazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o come lo volete chiamare, però non tutti l'hanno trasmesso integrale, cioè inizia ad esserci forse un po' di stanchezza. Ma quando mai, anzi, sì hanno dei pezzetti e quanto basta, e la più perfida è stata Lilli Gruber sulla 7, che ne ha trasmesso un pezzetto e poi ha affidato il commento a Carlo De Benedetti, che ha sommerso Conte di insulti perfino esagerati, insomma, di riproverandogli tutto quello che avrebbe potuto fare e non ha fatto. Stefano Cappellini oggi su Repubblica dice che è uno spettacolo indecoroso questo conflitto fra le regioni, un po' le cose che dicevi tu nei giorni scorsi, ce l'ha soprattutto con le regioni, e comunque in materia di virus a me la cosa che mi ha colpito di più è che Gianni Rezza, che è il capo della prevenzione del Ministero della Salute, nota una cosa che abbiamo notato un po' tutti, che il virus sembra, lo sottolineo, in fase di stabilizzazione. Cioè, mentre prima la crescita era esponenziale, ogni 2 o 3 giorni raddoppiava, adesso siamo lì con i contagi fermi intorno ai 30.000 ed è un buon segno, ed è anche quello per cui molte regioni dicono: ma come, i dati sono vecchi, la crescita esponenziale era di 4-5 giorni fa, adesso non sta più crescendo con quella cosa. Però intanto i danni ci sono, è saltata la prima della scala, Italo ha fermato i treni perché dice che aveva il 90% dei viaggi in meno, a Napoli si è chiuso il caffè Gambrinus, il Messaggero ci informa che qualcuno già si è messo a rivendere i bonus bici. Vabbè, cioè, vabbè, ma fantastico, esiste. A Sassari è in protesta, in fermento, perché sono state date delle multe alle autoambulanze ferme davanti all'ospedale, perché dice la legge è legge. A Lambrate ha chiuso il forno crematorio per i non residenti, si possono far cremare solo i cadaveri dei residenti. Paolo, fammi chiudere questa carrellata. Ma la Zaia l'hai visto? Sì, tu? Esatto, voglio chiudere la carrellata sul Covid proprio con Luca Zaia, perché ieri se ne è dibattuto tantissimo. C'è bisogno di forze ulteriori, di forze umane ulteriori per contenere il virus. E quindi Zaia cosa dice? Dice: vabbè, usiamo i veterinari per fare i tamponi. Sentite questo passaggio, perché non è tanto il dire questa cosa, ma è il come lo dice che mi ha fatto impazzire. Abbiamo dato mandato alla dottoressa Russo di convocare i rappresentanti dei 2450 veterinari per fare lo stesso lavoro. L'uomo è un mammifero, tutti i mammiferi hanno 7 vertebre cervicali, tutti i mammiferi sono catalogati in questa categoria perché allattano il nascituro, che siano dei volatili, dei pesci, anzi sono mammiferi, il delfino è un mammifero. Poi, per dire, poi no? Si perde un po' quando che siano volatili, che siano pesci. Meraviglioso. Comunque sulla prima pagina del Corriere della Sera Massimo Gramellini dice che c'ha perfettamente ragione Zaia a arruolare i veterinari, un po' come Churchill che mandò a salvare i soldati inglesi a Dunkerque delle zattere, delle piccole barche e motoscafi. E la cosa è, dice, qua la zampa, Zaia, sì. Gli offre la zampa e gli stringe la zampa. Ma insomma, giornata di, nonostante il complicatissimo, ma insomma, a questo punto superfluo di PCM, giornata di passaggio anche in materia di virus, mentre invece ieri, hai visto, il Parlamento ha approvato la legge Zan, la famosa legge su antiomofobia, però l'opposizione dice che è un testo liberticida, che con la scusa di fare una legge antiomofobia si pongono dei limiti alla libertà di parola. L'hanno votata anche, sì, alla libertà di espressione, l'hanno votata anche alcuni deputati del centrodestra, Renata Polverini, Stefania Bestigiacomo ed altri. Contiene o accenna al reato di abilismo, e l'abilismo è quello di reato per cui tu in qualche modo sottolinei la disabilità di un tuo interlocutore, per cui non si possono dire neanche più frasi: ah, per il tuo coraggio io nelle tue condizioni non ce la farei, questo non si può dire, o sono circondato da cerebrolesi, insomma anche queste battute non si possono più fare. E comunque una cosa che mi ha incuriosito è che la Tampax e Juvenia, le società si sono portate avanti e dicono: beh, noi non faremo più pubblicità perché gli assorbenti non sono solo per le donne ma anche per i transessuali, quindi dovremmo fare una pubblicità più vaga, leggo fra virgolette: non tutte le donne hanno il ciclo e non solo, e non tutte le persone con il ciclo sono donne, celebriamo la diversità. Questo è l'ufficio stampa della Tampax, insomma, buon per la Tampax. Questo è, scrive un ascoltatore, Marco da Bassano: sapete vero come i veterinari misurano la temperatura agli animali? Sì, lo sappiamo perfettamente, quindi, e speriamo che Zaia non stia pensando a qualcosa di questo genere, appunto per la misurazione della temperatura. Paolo, abbiamo ancora un minuto in chiusura, hai visto altro di volata? Sì, che fra i contraggiati illustri c'è Virginia Raggi, e segnalo che oggi sulla prima pagina della cronaca di Roma del Corriere Giuseppe Di Piazza fa un vibrante articolo a difesa della Raggi, siccome nessuno mai difende la Raggi dei giornali di Roma, tutti l'hanno in antipatia, a difesa perché non è stata convocata alla riunione che si deciderà per il giubileo da Conte, e quindi dice ha ragione perfettamente a protestare, lei è contagiata ma è asintomatica. E poi mi ha colpito che Carlo Cottarelli in un'intervista al Libero ha detto che basta parlare del MES, insomma non, lui è ancora a favore del MES, e poi a una domanda specifica ha detto si candiderà, dice ma mai dire mai, quindi vedi, forse vedi. Passa in politica. E che l'avvocato Pietro Longo, ti ricordi che demmo notizia che era stato sottoposto a un pestaggio, l'avvocato sì, di Berlusconi, ricordo, certo, ex senatore di Forza Italia, oggi è indagato in forma di giornale per violenza sessuale sulla figlia di una sua fidanzata o convivente sedicenne, e forse il pestaggio di 20 giorni fa era legato a questa vicenda. Ascrivibile a questo, la ragazza sì. Aveva allora 16 anni, adesso ne ha 31, ma c'è tutto il caso, chi lo vuole, raccontato sul Corriere della Sera. Ne avrei mille altre, ma sì, lasciamo perdere. Ci sentiamo domani, Paolo. Buona giornata, ciao. Ciao, ciao. Le 8 e 34 minuti, poco fa alle 6 e 30, nello spazio delle 6 e 30, un'ascoltatrice, un ascoltatore ci ha suggerito la citazione dotta per questa giornata. Italia est omnis divisa in parte stress, è l'inizio del debello gallico. Giulio Cesare che dice, parla della Gallia in realtà, e dice la Gallia nel complesso è divisa in tre parti, e quindi un'Italia divisa in tre, abbiamo zone gialle, zone arancioni e zone rosse. Da una zona gialla a questo punto nel... come lo chiamiamo, il Midwest italiano, che siamo in ambito di elezioni americane. Eugenio Giani, presidente della Toscana, buongiorno, benvenuto, eccoci. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua. Allora Giani, molti suoi colleghi, soprattutto dal centrodestra, ma soprattutto quelli coinvolti dai provvedimenti di ieri del governo che li collocano nelle zone rosse, stanno protestando. Sono di poco fa le dichiarazioni del presidente del Piemonte, Cirio, che dice io qua non ci vedo chiaro su questi parametri. La tensione in generale tra le regioni e il governo è stata molto forte, mi sembra, in questi ultimi giorni. Ma indubbiamente, ma devo dire che noi dobbiamo pensare non a queste zone con una sorta di classifica, meglio o peggio, noi siamo tutti nella stessa barca in tutta Italia, se ci sono dei parametri che indicano zone maggiormente delicate, più a rischio, è giusto vi siano provvedimenti più restrittivi, altre vivono una situazione di meno restrizione ma di grande soglia del pericolo, e conseguentemente io non sento assolutamente questo clima da classifica peggio meglio, ma invece dobbiamo essere uniti, dobbiamo indicare questi parametri semplicemente come stimolo per fare più o meno restrizioni, ma tutti siamo di fronte a un coronavirus che coinvolge a livello nazionale, quindi è stato giusto che fossero provvedimenti fatti dal Presidente del Consiglio, e è stato giusto che in qualche modo questo dibattito stimolasse un po' gli italiani a comportamenti individuali che sono importantissimi, perché al di là di quello che sono provvedimenti... Non ci legge Gianni, mi scusi, non ci legge Gianni una scelta politica, qualcuno lo dice oggi, dice scusate però chiudete la Calabria, la Lombardia, tra l'altro paragonandola alla Calabria di fatto, con una differenza di strutture sanitarie che ben conosciamo, il Piemonte, però per esempio la Campania non viene chiusa. Ma io non ci leggo una scelta politica, io vedo, sono a contatto quotidiano con anche coloro che operano, e devo dire che i dati che ci vengono richiesti sono sufficientemente oggettivi e sono sufficientemente in grado di darci un quadro della situazione, anche perché onestamente la pandemia si sta presentando rispetto al periodo di marzo-aprile, questa volta diffusa proprio su tutto il territorio nazionale, quindi insomma sono assolutamente casuali i riferimenti al governo delle singole regioni. Casuali, dice lei. Gianni, ascolti, l'altra questione sono le differenze territoriali all'interno delle singole regioni. E questo però mi sembra una questione. Questa è una questione forte, mi sembra, perché non so, adesso faccio un esempio sul mio, che almeno evita queste polemiche. Esattamente. Quando io vado a Santa Fiore, sul Monte Amiata, bella ridente cittadina, a insomma una certa altezza, lì siamo in una città montana, e il sindaco mi dice qui sono 3 contagiati, e riscendo a Firenze i contagiati invece sono un numero ben superiore, mi rendo conto che vi è anche per un fatto geografico nel nostro paese una situazione ben diversa di diffusione del contagio dal piccolo paese di quella che io chiamo la Toscana diffusa all'area metropolitana sulla Valle dell'Arno. Quindi indubbiamente io ritengo che poi la seconda fase, più che metterci a fare la classifica tra le regioni, dovrà essere quella di leggere bene il territorio all'interno delle regioni per essere più decisi. Ma non ci avete pensato prima? Il bar fino alle 6 onestamente stona, perché magari in un paese dove ci sono 3 contagiati il bar è un elemento d'aggregazione anche di comunicazione sociale, mentre invece quel provvedimento è giustissimo in una grande città. Mi scusi Gianni, non si poteva far subito? Voi gliel'avete detto al governo, guardate, noi abbiamo un territorio estremamente diseguale, no? Qua in Lombardia per esempio il paradosso è che Milano e Bergamo pari sono, nonostante Bergamo sia in una condizione nettamente migliore, tanto per fare un esempio. Oppure la Valtellina, per citare, no? Per rimanere agli esempi suoi, la Valtellina contro Milano. Non gliel'avete detto al governo questa cosa? Ma il governo si è trovato a vivere una situazione molto delicata. Onestamente io non mi sento di fare rimproveri, mi sembra abbiano agito con efficacia, senso di responsabilità. Nel decreto, anche se noi ci siamo fermati a leggere le prime parti, giustamente con quelle che hanno più attenzione mediatica, ma vi è poi la lettura del territorio interno alle regioni, e in questo caso si prevede che sulla base degli andamenti epidemiologici della pandemia vi possa essere anche per singole parti del territorio un decreto del Ministro della Sanità con naturalmente il parere del Presidente della Regione, che possa fissare regole più rigorose in alcune delle aree, e sarà la seconda fase. Però sempre, diciamo, più rigorose, cioè non c'è la possibilità invece di avere regole più morbide in alcune zone del territorio a minor contagio, Gianni? Ma in questa fase, quando noi abbiamo davanti, diciamocelo con chiarezza, 5-6 mesi di un tempo climatico, perché poi al di là di tutti i discorsi, io non sono un medico e quindi le cose le guardo col buon senso di ogni cittadino, ci siamo resi conto che questa pandemia, questa patologia virale riflette molto quello che è l'andamento del clima, e quindi l'estate, quando andiamo sopra i 27-28 gradi, quando vi è i raggi ultravioletti che esercitano quella funzione che tutti sanno con il virus, si allenta, come abbiamo visto da giugno a settembre. Noi ora abbiamo davanti l'inverno, quindi ci sono condizioni climatiche in cui l'umidità e la bassa temperatura chiaramente danno un vantaggio al virus, quindi dobbiamo essere pronti. Gianni, lei ha intenzione di, immagino che ci dovrà seguire a questo decreto un'ordinanza del Presidente della Regione, o non deve seguire, cioè si applica in alcuni aspetti particolari, no? Sì. Una delle cose infatti che nelle riunioni fra i ministri e i presidenti delle regioni maggiormente veniva in qualche modo evidenziata era che rispetto alla prima fase dei DPCM, di queste fonti normative che nel periodo d'emergenza vengono emanate dal Presidente del Consiglio, ecco, rispetto alla prima fase dove si dava all'ordinanza del Presidente della Regione un carattere attuativo molto forte, si è in questo DPCM creato un sistema di automatismo che viene molto dettato dai tecnici, da qui le polemiche di qualche Presidente di Regione. Il ruolo centrale l'acquista questo CTS, Comitato Tecnico Scientifico, che è l'organismo di consultazione, sì, e valutazione del Ministro della Sanità. Sì. Là, su questo fronte, Gianni, hanno resi chiari, allora ci sono 21 indicatori che, dei quali, esatto, tiene conto il CTS, che poi, sì, vanno a comporre un algoritmo il quale poi decide in che condizioni è la regione. Vi hanno reso chiaro ai vostri uffici tecnici, perché c'erano molti dubbi su questo, qual è la ponderazione di questo indice, quanto conta ogni singolo elemento, eccetera eccetera, cioè è stato tutto perfettamente trasparente? Ma ancora è presto per poter avere un'assimilazione di questi indici da parte dei nostri, diciamo così, tecnici e scienziati di cui ci avvaliamo a livello regionale, però è comprensibile, quindi in qualche giorno entreremo tutti dentro questo clima. Sono due poi i livelli, perché vi è questo livello qualitativo che passa attraverso i 21 indicatori, per cui con 21 indicatori si riesce a dare la sintesi di tre posizioni, sì, alta, media, moderata, la diffusione, sì, del virus. Poi vi è l'altra colonna, usiamo, sì, questo termine, sono due colonne. L'altra colonna è quella dell'RT, ovvero il coefficiente, quello coefficiente algoritmico con la quale si misura, diciamo così, il rapporto fra l'aumento del contagio ogni giorno e quello che è la situazione che vi è complessivamente nella, sì, regione. E è il famoso 1,5, fin dall'inizio l'1,5 è stato considerato come dato di riferimento per vedere la diffusione pandemica. Su questo anche in questo caso alto, medio e moderato. Si va in zona rossa quando si è al massimo in tutte e due le colonne, per intendersi. Sì. Si è in zona arancione quando, sì, si è al massimo in una delle due colonne, e in zona gialla quando non si è in nessuna delle due, che è il caso vostro. In questa situazione devo dire che rispetto all'RT io ritengo ci sia ormai un livello di assimilazione nel concetto diciamo del rapporto anche a livello locale, sì, che lo rende piuttosto oggettivo. Sì. I 21 parametri dell'altro aspetto, quello qualitativo, dell'altra colonna, come l'ho chiamato io, ancora deve essere un po' assimilato, e sì, è quello che provoca un po' queste polemiche. Le faccio un'ultima domanda su tutt'altro, Gianni, prima di chiudere. Sì. Avrà visto oggi la prima pagina del Sole 24 Ore che riporta questa storia dei 154 milioni di fondi non spesi dell'alluvione del 66. Poi in realtà sono soldi, diciamo, che sono arrivati nel corso degli anni e che servono a fare quei lavori e che rimangono là incagliati per tutta una serie di questioni burocratiche. La Toscana... prego. Guardi, io le posso dire che su questo vi è sempre una grande discussione, ma quando poi, nella mia esperienza da amministratore, vado a vedere con mano, mi rendo conto che i dati vengono dati anche con un carattere molto, diciamo, sommario. Si dice non sono spesi, ma poi ci si rende conto tutti i motivi per cui degli stanziamenti. Io le dico questo molto concretamente. Sì. L'anno scorso l'Arno, nella parte proprio, l'Arno è quel fiume che dice Dante 700 anni fa, il Fiumicel che nasce in Falterona, 241 chilometri, gli ultimi 50 chilometri nella zona da Punta Edera a Pisa rischiò veramente l'alluvione, si arrivò a una luce nel ponte di mezzo di 80 centimetri, se superava quello, sì, il ponte creava effetto diva e l'Arno trascinava. Perché non avvenne? Perché realizzammo e inaugurammo due anni fa a Rofia, nel comune di Samignato, un grande invaso con più di 5 milioni di volumi di acqua, sì, che fu riempito al massimo, così come lo scolmatore che ha consentito due deviazioni per poter far uscire l'Arno in mare. Quindi io vedo che le opere che sono state fatte stanno funzionando, e quindi ci sia, non ci sia, sicuramente noi ne faremo altre, sono in progetto 4 invasi, però l'opera dell'uomo, l'opera della regione sotto questo aspetto ha evitato accelererete danni. E accelererete sulle spese, sui soldi ancora da spendere, immagino. Certamente. Gianni, grazie. Eugenio Geni, Presidente, grazie della Regione Toscana, buona giornata. Claudia da Bergamo, buongiorno, rapida se può. Buongiorno, solo due considerazioni. Mi piacerebbe sapere se è stato valutato quanti bergamaschi o lombardi sono in terapia intensiva in Lombardia e quanto costa un posto letto Covid. Trarremo queste informazioni sul posto letto Covid. Non so se dietro ci sia un'idea un po' complottistica sul fatto che si riempiono i posti di terapia intensiva perché così gli ospedali guadagnano, però perché un po' gira questa cosa qua. Luca, la provincia di Macerata, altrettanto rapido per favore. Sì, buongiorno a tutti. Prego. Volevo solo sottolineare che il 20 ottobre in un'ANSA il presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli parlava di pare che sarebbero spilate se non si fosse intervenuto. E poi mi trovo la campagna in zona gialla. E l'altra cosa, sono molto perplesso da marchigiano, perché il mio presidente della regione ha detto che fino a ieri sera non sapeva nemmeno lui in quale colore potessimo finire come regione. Adesso glielo dico, è giallo. Mi sembra molto tranquillo. Politica come scelta. È quello che denunciano alcuni presidenti di centrodestra, quello che dice l'opposizione. Torneremo a parlarne ovviamente. Angelo Tofolo, buongiorno, sottosegretario alla difesa, eccoci qua. Salve, buongiorno a voi. Buongiorno, con lei per parlare di una questione che è tornata in evidenza dopo l'attentato di Nizza. Il racconto dell'attentato di Nizza ci parla di una persona che era sbarcata a Lampedusa pochi mesi fa e poi appunto ha ricevuto un foglio di via, è andata in Francia e in Francia ha colpito, presumibilmente accompagnata da un'altra persona. E si riapre il tema del rapporto tra immigrazione e terrorismo. Lo ha fatto anche un autorevole esponente del vostro partito, Tofolo, lei è del Movimento 5 Stelle ed è il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, il quale ha detto che bisogna tornare ai porti chiusi per una questione di sicurezza nazionale. Cosa dice? Ma io dico che quest'anno noi abbiamo uno strumento che è il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, il famoso CASA, che ha tra le sue priorità proprio l'individuazione dei processi di radicalizzazione che sono fondamentali per la sicurezza del paese. Proprio quest'anno sono stati fatti ben 268 arresti e 193.000 verifiche proprio per andare a individuare questi individui subiscono delle radicalizzazioni. A mio avviso è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. Spesso quando dopo Nizza c'è stato l'episodio di Vienna, io ho ascoltato la conferenza stampa del ministro dell'interno dove praticamente ha finalmente detto in maniera definitiva che l'attentatore era uno che aveva agito da solo, poi ha ovviamente messo un po' sotto accusa i servizi di sicurezza e l'intelligence austriaca che non aveva gestito bene appunto la segnalazione proveniente dalla Slovacchia. Poi come ultimo anello debole queste associazioni che avrebbero dovuto lavorare per la radicalizzazione. Io credo che dobbiamo metterci un attimino seduti al tavolo e migliorare i nostri strumenti per dare appunto alle nostre forze di polizia, ai nostri servizi di sicurezza, e parlo a livello europeo, maggiori strumenti. Siamo in un momento difficilissimo, vi ho ascoltato poco fa, ovviamente parlavate del nuovo DPCM. Quello che sta succedendo è che in un momento complesso per l'Italia, per l'Europa e ovviamente per il mondo intero, queste organizzazioni tornano a colpire. A Vienna, praticamente alla vigilia di un lockdown completo, in un momento quindi di grande negatività a livello mondiale, un momento in cui i cittadini ovviamente soffrono già una condizione totalmente difficile, queste organizzazioni continuano a colpire. I porti vanno richiusi, Tofolo? Ma sicuramente proprio in questi giorni noi stiamo rianalizzando il decreto sicurezza, il tanto discusso decreto sicurezza. Io personalmente come componente del governo ho seguito ieri in commissione difesa il provvedimento e penso che questa discussione si sarà molto accesa nei prossimi giorni, dove sicuramente andremo a mettere mano per migliorare quella che è la situazione. Però ripeto, a mio avviso, quando parliamo di terrorismo e terrorismo internazionale dobbiamo totalmente cambiare l'approccio. Io porto avanti da qualche anno uno studio già diviso da tecnico, da ingegnere, elaborato con altri ingegneri, condiviso con la comunità scientifica, e si parla di nuove linee guida operative per la protezione degli spazi pubblici. Quindi ripeto, al di là di tante chiacchiere dovute anche di solidarietà spesso poi ai popoli, ai governi, ai paesi colpiti, credo che lo sforzo dell'Italia e dell'Europa deve essere quello di andare ad armonizzare. Ci fa un esempio di queste linee guida, sottosegretario? Ma noi abbiamo abbiamo raccolto, abbiamo creato un database con tutti quelli che sono stati gli attacchi, gli attentati negli ultimi anni, per andare, è un lavoro tecnico molto articolato, fatto con algoritmi, equazioni che vanno a delineare una serie di metodologie da un punto di vista proprio ingegneristico e progettuale, con applicazione di nuove tecnologie, che vada a progettare lo spazio esterno in maniera più sicura. Quindi parliamo videocamere posizionate in un certo modo, a dissuasori che vadano a evitare ad esempio attentati come ci furono, ricorderete tutti, il mercatino di Natale sempre in Francia nel 2016, qualche anno fa, con un tir che percorreva questa strada, per cui una serie di progettualità che sono fattibilissime. Questo è un ragionamento che si è fatto già da diversi decenni negli Stati Uniti all'epoca per contrastare la criminalità organizzata sul territorio. In Francia è l'unico paese europeo dove si è fatta una riflessione del genere. Io credo che abbiamo il know-how in Italia per andare a creare queste nuove metodologie, accanto ovviamente a una, a mio avviso, riformulazione o riassetto anche degli organi di intelligence, che spesso vanno a sovrapporsi in alcune competenze, e mi riferisco alle grandi organizzazioni. Dopo la morte di al-Baghdadi, come dire, con grande soddisfazione della comunità internazionale, in particolare all'epoca degli Stati Uniti di Donald Trump, di certo non è stato sconfitto Daesh, perché abbiamo capito che il califfato è più importante del califfo stesso, e hanno avuto questa strategia di comunicazione in rete attraverso i social network, sì, che va a creare un eco globale sia sulle attività e sia fortemente a incidere sulla radicalizzazione sia dell'individuo sia collettiva. Quindi anche una nuova agenzia di intelligence che sia prettamente specifica per il dominio cibernetico, che vada a contrastare queste cose, ritengo sia necessaria. Daesh è ancora un pericolo, dice lei. L'Italia corre rischi? Ma l'Italia, come dire, come tutti i paesi, ha un'allerta massima, soprattutto dopo questi ultimi attentati. C'è stato a breve il Ministro dell'Interno che ha appunto convocato, oltre al CASA, un comitato di sicurezza per valutare, ecco, quello che è il rischio dopo gli attentati di Nizza e di Vienna. Sicuramente dall'11 settembre, dal famigerato 11 settembre del 2001, la sicurezza, la strategia contro il terrorismo internazionale si va a basare su tre pilastri. Quindi la prima è l'analisi di intelligence, il controllo del territorio e degli obiettivi sensibili, e qui ovviamente anche la collaborazione con l'Islam moderato, quello che condanna fortemente poi questi attacchi e quindi che è suo stesso vittima, e quindi la collaborazione tra tutti gli attori della sicurezza a livello internazionale. Qui ci vuole un vero sforzo di adeguamento della parte legislativa, mi riferisco ai ministeri, ma per far capire anche a chi ascolta, parliamo della procedura della macchina della giustizia, quindi del Ministero della Giustizia di ogni paese, che vada ad agevolare lo scambio informativo, perché poi quando quello è fondamentale, siamo d'accordo, Tofalo, a livello europeo. Abbiamo ancora 30 secondi, io però devo tornare alla domanda, se vuole, iniziale. Secondo lei vanno riviste le regole sull'immigrazione, appena riviste peraltro, cioè la revisione dei decreti di sicurezza va rivista? Ma va rivista alzando ancora di più il livello di controllo. Vanno forniti strumenti ulteriori alle nostre forze di polizia, alle nostre forze di intelligence, che operano con grandi sacrifici sul territorio, e ripeto, il dovere del legislatore è quello di stimolare nuovi approcci, quindi scambi informativi e database migliorativi. Noi abbiamo il CASA. Quindi non rivista in chiave di stretta sull'immigrazione in quanto tale, ma rivista come controllo all'atto dello sbarco, in sostanza. Esatto. Vanno sviluppate, ripeto, nuove metodologie per garantire la sicurezza dello spazio collettivo, dello spazio pubblico, in maniera più forte e incisiva, partendo dalla progettazione di questi spazi. Grazie Angelo Tofalo, sottosegretario della Difesa, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. GR24, ci risentiamo domani mattina alle 6:30.